perché poi in fondo sì, va bene. Puoi prendere le tue cose, partire, girare il mondo, ma non è semplice dimenticare da dove vieni, perché poi in fondo tutti quanti siamo stretti come un nodo al nostro suolo. FIVE. Provo a descrivere parole su parole, censure su censure. Beh, quello che vuoi rivivere, emozioni pure tra l'essere e il nascere. È da quattro ore che questo sole lo vedo crescere. Siamo, non siamo, inseminazioni artificiali, nuovi progetti con arresti domiciliari. Che cosa ti aspetti del tuo domani? Ti arresti o parti, ma dove vai? Stati dove non combatti. La verità è che nessuno sa più quello che vuole. La gente qua va avanti a fatica e piano piano si muove. La verità è che nessuno sa più quello che vuole. Ma la gente qua è la rinascita, è già pronta che si muove. Ma la verità, ma la verità dov'è, qual è? La verità è che nessuno sa più quello che vuole. Ma la gente qua è la rinascita, ma la rinascita dov'è? Ma la gente qua è la rinascita, è già pronta che si muove. Sai che c'è, non è facile fermarsi. Vivi e non hai spazi per il tuo tempo. Congetture simbiotiche di un cielo aperto. Popolazioni cibernetiche seguono senza stento. Emozioni distanti, parole su parole mai dette davanti. Chi sono gli altri? Per giudicare un luogo sei quel che sei, stretto come un nodo al tuo suolo. La verità è che nessuno sa più quello che vuole. La gente qua va avanti a fatica e piano piano si muove. La verità è che nessuno sa più quello che vuole. Ma la gente qua è la rinascita, è già pronta che si muove. Ma la verità, ma la verità dov'è, qual è? La verità è che nessuno sa più quello che vuole. Ma la gente qua è la rinascita, ma la rinascita dov'è? Ma la gente qua è la rinascita, è già pronta che si muove.